Friuli nel mondo, 256esima trasmissione dedicata agli emigrati. Amore e nozze ieri in Friuli. È uscita recentemente la terza ristampa del volume di Paola Cracina, Nozze ieri in Friuli. Giustamente l'autrice afferma che non vuole essere un trattato scientifico di folklore nuziale, ma una testimonianza d'amore verso la propria terra e verso la propria gente. Noi possiamo definire questo interessante, piacevolissimo studio una vera miniera di notizie su vicende e costumanze in un Friuli che andrebbe scomparendo se non ci fossero generosi custodi, come Paola Cracina, a conservarlo nel tempo. Le tradizioni nuziali sono quelle che si mantengono più tenaci anche nel nostro Friuli, benché pure qui vada attenuandosi la tendenza a contrarre nozze fra persone che vivono nel medesimo paese e a celebrarle in periodi dell'anno che non siano quelli invernali, come il presente, allorché molti rientravano dall'estero per coronare, fedeli alla promessa, il loro sogno d'amore. Ricordate la vecchia villotta. Le benverchio mis lontani dal país, ma no dal cur. Sta pur salde tuninine, che io torni se no mur. E la risposta di lei? Se io fossi un esisile, in Germania vorreslà sull'armadure, la calea lavorà. Ma la lunga attesa sta per finire. Poche parole confermano la promessa dell'addio. Non sta spieta queste di me. Quando torni, ti sposarai. Abbiamo voluto far precedere queste brevi note ad alcuni canti e villotte di carattere amoroso che oggi dedichiamo a voi, cari emigrati, pensando anche ai tanti per i quali un tempo viaggio di nozze si identificava nella partenza verso paesi lontani e stranieri in cerca di lavoro e di fortuna. Ascoltate dunque, nell'interpretazione del quartetto Stella Alpina di Cordenons, la scherzosa e notissima villotta e l'allegrie a Jedi Zovins. E l'allegria è dai Zovins, e l'allegria è dai Zovins, e l'allegria è dai Zovins, e non dei vecchius marità. E ma chi è lui che l'alla vie? E ma chi è lui che l'alla vie? E ma chi è lui che l'alla vie? E col garoffo sul ciel. E sammi salte, io voglio la vie. E sammi salte, io voglio la vie. E sammi salte, io voglio la vie. E vai a più. Salle bien, e salle bien, io lo domandi, e salle bien, io lo domandi, e salle bien, io lo domandi, e salle blu, lo lassi stare. E c'è lu, e tu minine, e c'è lu, tu c'è lu e tu ninine, e cale un fi di un buon parol. All'alciavalle la carete, all'alciavalle la carete, all'alciavalle la carete, e parmena ti apporterò. E io non voglio tanti pretesi, a me me basta un contadin. E cammi dai mangia polente, e cammi dai mangia polente, e cammi dai mangia polente, e dei fasuoi a plencia di. Thank you. Dopo essere stata a confessarsi dal parroco del paese, si è liberata da un gran tormento questa ragazza innamorata che ora vi racconta «Io soy stade a confessarmi». «Io soy stade a confessarmi dal mio soli confessor. Lui mi ha detto mi malivi, poi se predi dal Signore». Lalla. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la la la, lui mi ha detto mi maridi, noi c'è predi predi predi predi dal Signor. Benedete che contrate calci a mie sior pleva. Benedete che zornate, calmi met l'avere in man. La la, tra la la la la la la la, tra la la la la la la la la. Benedete che zornate, calmi met l'avere in man. La la. Anche oltre la morte, l'amore persiste e fa soffrire i cuori innamorati. Sentite «Se savessi sfantazzinis». «Se savessi sfantazzinis, c'è che son sospir d'amor. Si mur si va soppiare anche mo, si si il dolor. Sclope cur spacios penosis, stanta i cur si no. Ma benedetto uomo, doveva chiederle proprio di sabato di fare all'amore? Lei domanda del disabile se un fa l'amor come e ha avut cor di rispondimi e ha avut cor di rispondimi. Lei domanda del disabile se un fa l'amor come e ha avut cor di rispondimi. No, la fe, ma pur in fonza l'anime, speri une di ansimo, che veppi di risquindimi, che veppi di risquindimi, lolla, ma pur in fonza l'anime, speri une di ansimo. Che veppi di risquindimi, si, si, io soy to. Il quartetto Stella Alpina, che nel novembre-dicembre 1973 ha suscitato tanto entusiasmo in Argentina, conclude la breve rassegna con un canto popolare pervenutoci dai paesi dell'Alta Val Degano, in Carnia. Si tratta di «In che di dalis mes gnocis». ieri va. Se non fali, aie domani. Quanche io voi vie di Kelci, quanche io voi vie di Kelci, fin la spiero la libera, fin la spiero la libera, fin la spiero avaiara. In che vita lis mes viosis, in che vita lis mes viosis. C'allegrie la libera, c'allegrie la libera, c'allegrie casarà. E memori buarino, e memori buarino. E memori la libera, buarino la libera, tal canton. La libera puarino, la libera tal canto. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.